and then you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna è stato continuo, abbiamo fatto 70 e noi siamo arrivati a 70. Siamo di qua, mutanda da fascia, pezzo di merda, pezzo di merda. Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Ha ha ha. Ah, iniziamo così questo nuovo episodio di Buongiorno un cazzo per tutti coloro che si aspettano che io abbia delle cose da dire in merito a ciò che sta succedendo, a ciò che è successo, a ciò che sapevamo che sarebbe successo. Mi viene da dire solo ah, ah, ah, perché ribadisco, se pensate che io abbia qualcosa da dire siete nel posto sbagliato questa volta. Dopo tanto tempo siete nel posto sbagliato perché non ho niente da dire, non saprei cosa dire, non saprei da dove iniziare, non saprei soprattutto perché dire, che è la cosa più importante, ma siamo qui questo martedì mattina alle ore 7, faccio questa live e subito dopo mi precipiterò in palestra per fare i miei esercizi con la personal trainer. E intanto qualcosa da dire ce l'ho, così, giusto per fare questa introduzione. Vi ricordo che durante l'arco della giornata Runtime Radio ha ricominciato a trasmettere tutti i suoi podcast storici secondo delle fasce orarie precise. Dovremmo pubblicare da qualche parte, insomma, il palinsesto, in modo che uno dice ma quando c'è quella cosa piuttosto che quell'altra. E in effetti, però, la nostra pigrizia vince su qualsiasi cosa. Vi ricordo insomma che la prossima settimana, anzi fra due settimane, adesso vi dico bene quando, giusto perché sono qua con il calendario a portata di mano, e il giovedì 6 ottobre ricomincia. Giovedì 6 ottobre ricomincia Quando eravamo futuro, che a differenza delle altre volte, delle altre occasioni, non sarà più settimanale ma bisettimanale, cercando insomma di dribblare tutti quelli che sono gli impegni sia di Carlo che di Davide Gatti, che oramai è diventata una star di YouTube, come sapete, e quindi è un po' complicato, diciamo, riuscire a trovare il tempo per tutte le cose, ma soprattutto perché diciamo che nella riunione di prestagione ci siamo detti ma oramai le cose le abbiamo dette tutte, cosa c'è da dire, abbiamo aperto il documento del piano editoriale, invece siamo resi conto che c'era veramente una marea di roba, quindi torneremo a parlare di tutte le cose belle degli anni 70 e 80, anche le cose brutte ovviamente, perché poi come c'è stata la puntata di Alfredino ci saranno anche altre puntate molto impegnative da un certo punto di vista, e anche magari serie ma meno impegnative che comunque interessanti fatti riguardano società e costume degli anni 70 e 80, quindi noi che ci dislochiamo spazio-temporalmente, e c'è il cane che piagna non so per quale ragione. E poi il computer che mi ricorda che ho degli appuntamenti, e l'appuntamento nello specifico è questa diretta qua, insomma, quindi vedete che è tutto un po' in divenire. E prima di iniziare con quelli che sono i veri temi, insomma, della, anzi il vero tema, perché quindi sarà una puntata un po' più breve, perché farò delle mie considerazioni molto a braccio, non mi sono preparato assolutamente niente, non ho niente da dire, diciamo così. Nello specifico, poi dopo alla fine comunque qualcosa da dire esce fuori, perché più che altro proprio considerazioni a posteriori riguardo a quello che avrebbe potuto essere, quello che non è stato e quello che, diciamo, potrebbe riservarci il futuro di una riorganizzazione anche dal punto di vista politico, cercare insomma di costruire delle alternanze, di costruire una cultura politica e civica soprattutto, che è la cosa importante, perché vedete che il dato più rilevante secondo me non è il risultato politico, ma un altro tipo di risultato. Comunque, prima di dire questo, insomma, vi ricordo che la scorsa puntata vi ho parlato della Soccer Federation, che c'erano i mondiali di questa Soccer Federation. Sono finiti i mondiali, l'Italia insomma si è comportata abbastanza bene, ma non è riuscita ad arrivare fino in fondo alla competizione. Ha perso 6-2 col Brasile nel girone, e ha perso anche male col Kazakistan, che pare essere praticamente la seconda formazione più forte di questo tipo di competizione. Però poi ha fatto 26-1 contro l'India, considerando che le partite sono di 30 minuti a tempo, cioè questi praticamente ogni 2 minuti facevano un gol, cioè. O quelli non si erano presentati, non lo so perché me la so persa la partita, altre le ho viste, ma quella me la so persa. Aspetta, scusate, però cioè, sto a prendere a calci il cane, perché improvvisamente è impazzito il cane. E nessuno mi dà un supporto da questo punto di vista, perché insomma non ho capito perché il cane me si deve mangiare la gamba. E comunque, e vabbè, insomma, ha vinto il Brasile ha vinto insomma la finale, quindi complimenti al Brasile. Devo dire, è stato anche un bel torneo, è stato figo perché è stata tutta la cerimonia finale. E c'è questa cosa di questo stadio, capito, che poi lo smontano e lo porteranno nella prossima sede dei prossimi mondiali, adesso non ricordo dove. E invece vi ricordo che ieri sera, incredibilmente, no, neanche tanto incredibilmente, l'Italia, che di calcio, quello vero praticamente, che è capace di cadute incredibili, allo stesso tempo di un modo di risorgere praticamente lento ma inesorabile. L'Italia ieri ha vinto contro l'Ungheria, in casa dell'Ungheria, 2-0, vincendo il girone e arrivando alle Final Four della Nation League, che può sembrare insomma una stupidaggine, però invece è una cosa abbastanza importante, perché in questa fase di ultra sperimentazione della nostra nazionale da parte dei Mancini, che ci porterà ovviamente alle qualificazioni per i prossimi europei, ha visto praticamente ieri sera il 51esimo esordiente da quando appunto c'è Mancini sulla panchina. Ricordiamo insomma che sabato abbiamo battuto l'Inghilterra, che insomma condannandola alla Serie B della Nation League, e quindi facendole perdere il ranking, e tra l'altro non sarà testa di serie nelle qualificazioni dei prossimi europei. Questo deve essere veramente, cioè, io penso che gli inglesi in questo periodo storico ci vedono veramente. E poi ieri sera ovviamente abbiamo vinto insomma contro l'Ungheria, rischiare di andare anche noi in Serie B, abbiamo vinto il girone, e quindi andremo alle Final Four del Nation League, che è importante soprattutto non soltanto per il ranking, ma perché così l'Italia diventa testa di serie per le prossime qualificazioni agli europei, e che insomma la mette in una posizione un po' più vantaggiosa, diciamo, per cercare di raggiungere un obiettivo. Allora io direi che a questo punto possiamo iniziare veramente. Non dici, ma che hai fatto fino adesso? No, vabbè, abbiamo fatto un po' due chiacchiere così. Inizio con una canzone che secondo me insomma dovrebbe farci capire alcune cose. E e questa era la premiata Forneria Marconi con Rivoluzione, e che ci accompagna, insomma, ci introduce, diciamo, in questa parte centrale della trasmissione, che insomma partiamo dal risultato. Il risultato è che sono un po' rincoglionito stamattina, devo dire la verità, insomma, perché sono svegliato un po' di corsa, ho già fatto colazione, sono già vestito perché poi devo andare a fare gli allenamenti e via dicendo, quindi sono un po' rintronato, però cerco di riassumere, diciamo, organizzare un po' un pensiero. Allora, il primo risultato è che in maniera incontrovertibile il centrodestra ha vinto queste elezioni con la maggioranza assoluta, quindi governeranno stabilmente nel limite di quello che possono governare loro stabilmente, nel senso che se avranno problemi di stabilità di governo è perché ci avranno dei problemi loro interni, insomma, perché comunque diciamo che la loro posizione è quella abbastanza solida di chi può governare, insomma, senza avere grosse difficoltà dal punto di vista della tenuta del governo, soprattutto per quanto riguarda la maggioranza parlamentare, che è la cosa, diciamo, più importante. E questa è una cosa innegabile, insomma, non è che ci giriamo troppo intorno, insomma, è una cosa che sapevamo, che per la quale eravamo pronti. Molti ho visto che sono particolarmente disperati, io non sono così disperato, anche perché sono abbastanza convinto che il nostro paese, la nostra Costituzione è attenuta, insomma, da un certo punto è attenuta democratica, diciamo che fino a che c'è una Corte Costituzionale, fino a che ci sono comunque delle situazioni che, diciamo, fanno da cuscinetto rispetto a quelle che possono essere modifiche costituzionali che già Fratelli d'Italia, insomma, ha dichiarato di voler fare, diciamo che ce la possiamo fare a un certo punto di vista. Ce la possiamo fare e ce la faremo, questo, cioè, nel senso, secondo me terremo la sua botta. Poi chiaramente loro applicheranno le loro politiche, ci saranno molte cose che non ci piaceranno, ci saranno alcune cose che magari potranno anche andare bene. L'unica cosa che mi posso augurare, a differenza, insomma, diciamo, di quello che fa la politica, che sta facendo la politica negli ultimi 20 anni in generale, questo non soltanto in Italia ma a livello globale, è quello di non fare una politica contro, cioè, nel senso, governiamo noi, quindi mo so cazzi vostri, cioè, che è secondo me il presupposto peggiore per poter governare un paese, per non creare divisioni, no, ulteriori divisioni, perché alla fine comunque ci sarà un momento in cui questo atteggiamento divisivo poi porterà inevitabilmente degli scontri, insomma, no, perché poi chiaramente ogni categoria tenterà in un certo senso di difendere se stessa, i propri diritti, i propri interessi, chiaramente, soprattutto la propria soglia di sopravvivenza, no? Che non è soltanto economica ma è anche di tollerabilità, no? Quindi c'è di vita rapportata a quelli che sono anche dei diritti acquisiti, insomma, che abbiamo ottenuto in 50 anni, 60 anni di impegno, di sacrificio. Quindi a un certo punto di vista, insomma, cercare di mantenere quel livello di modernità e di civiltà che fino adesso un minimo, non dico ci contraddistingue, ma insomma ci ha un po' distaccato da quelle che erano le condizioni del passato. Il secondo risultato inequivocabile è forse la più grave affluenza, la più grave situazione dell'affluenza al voto, ossia forse la più bassa dall'era repubblicana, e come ho detto in tantissimi altri episodi nei vari podcast, l'Italia fino agli anni 90 ha avuto storicamente forse la più alta affluenza al voto, ma poi qualcosa è cambiato quando è cambiata la politica. Io metto sempre Berlusconi come spartiacque, perché secondo me Berlusconi ha spaccato la politica democratica in Italia in qualche maniera, l'ha degradata, e il senso di rappresentatività, di raffigurazione, di serietà che la politica ha sempre avuto nei confronti della nostra cultura è sicuramente crollata, e da lì in poi è stata un'escalation verso il basso, dove praticamente quelle che dovevano essere le politiche progressiste hanno finito per diventare delle politiche conservative ed autoconservative, e quelle che erano delle politiche di conservazione invece guardavano, diciamo, un approccio del comunicativo soprattutto molto più moderno da un certo punto di vista, che poi siano state usate de merda è un altro discorso, però comunque questo è stato la situazione, cioè nel senso che comunque quella che era la politica più istituzionalizzata si barricava dietro al fatto: ah, noi siamo la politica seria, la politica istituzionale. E quella che invece era la politica più rabbiosa alla fine ha parlato alla gente tramite i social, tramite i vari media, i nuovi media e via dicendo. E quindi questo col passare del tempo associato anche a un altro problema che poi adesso andremo ad affrontare, ha sicuramente costruito, ha peggiorato insomma la situazione sempre di più. E l'altro discorso infatti è proprio quello che vede diciamo quella che è quella politica istituzionale di cui parlavo prima, quindi tutte quelle realtà più tradizionali della politica italiana, applicare un senso del disperato conservatorismo. In che senso? Cioè hanno cercato di preservare la propria entità, la propria identità e la propria serietà anche dal punto di vista della costruzione della, diciamo, del rimandare quello che poi alla fine è diventato inevitabile, cioè barricarsi dietro a governi istituzionali, alleanze improbabili, governi tecnici, ma soprattutto maggioranze incompatibili, no? Perché per non arrivare alla fine, ad arrivare a delle elezioni che avrebbero portato a un risultato ovvio e certo, si è tentato di fare di tutto per cercare di condurre quella che era la politica più europeista, più equilibrata, più sensata e più istituzionale, no? Come se ci fosse un dovere supremo da parte di questi politici, di questa politica, nei confronti di quella che è la democrazia. Tra l'altro peggiorando le condizioni di salute della nostra democrazia, perché chiaramente la gente, e da un certo punto di vista sicuramente avevano anche le loro ragioni, vedevano questo tipo di comportamento come appunto una cancellazione della democrazia, una cancellazione, anzi un assassinio della democrazia. E per quanto un certo tipo di atteggiamento potesse essere esasperato, esagerato, era inevitabile che il rimandare la scelta elettorale in continuazione a favore dei governi tecnici che non hanno fatto altro che ripristinare un certo tipo di hanno restaurato un certo tipo di privilegi, vedi le banche, gli interessi fiscali, insomma tutta una serie di situazioni che si era cercato di ammorbidire in favore anche di una crisi che non era soltanto economica ma poi successivamente anche pandemica. Ecco, questo tentativo ha fatto in modo che praticamente si rimandasse fino ad arrivare al punto in cui alla fine è arrivato l'inevitabile, ossia è arrivato un voto che si è esacerbato da questo punto di vista, perché tutti coloro che hanno partecipato, diciamo, a questo tentativo di rimandare il momento, quelli che venivano considerati i partiti più istituzionali, alla fine hanno pagato tutti, non ha pagato solo il PD, ha pagato la Lega, ha pagato sicuramente anche Forza Italia da un certo punto di vista, e quando invece poi alla fine ha tenuto quel movimento, diciamo, un po' riottoso che ha cercato di riorganizzare una propria identità, che è quello del Movimento 5 Stelle, che noi eravamo convinti sarebbe sparito insomma dietro questa tornata elettorale. C'è una cosa che mi sento di dire rispetto a quello che è stato e avrebbe potuto essere e quello che potrebbe essere in un futuro, fermo restando che questo non è il mio governo, non è il governo che mi rappresenta, e spero di avere le forze e le energie insieme a tanti altri di combatterlo, questo governo, dal giorno stesso che si insedierà, che verrà, insomma, e si insedierà praticamente nelle poltrone del potere, perché questa cosa è l'unica cosa che ci deve far trovare l'energia per poter sopportare quelli che saranno degli anni difficili, dove comunque noi dovremo rispondere con la nostra forza, perché sono abbastanza convinto che la metà delle persone che hanno votato hanno fatto il classico voto di protesta, di rifiuto di tutto quello che è stato soprattutto l'ultima fase del governo Draghi, dove praticamente chiaramente questo distacco, no, tra l'interesse della politica e l'interesse del popolo è aumentato in maniera vertiginosa, anzi diciamo che si è proprio creato una frattura talmente grossa, per quanto già lo fosse, che è difficile proprio riuscire a, insomma, sarebbe stato difficile risanarla in queste condizioni, con questo contesto. Quindi l'unica cosa che avrebbe dovuto fare la politica di centro-sinistra è quella di ricostruire un rapporto, un legame con un certo tipo di elettorato, ritornare nelle scuole, cercare di rinfondere un senso di civico alle persone, ai prossimi futuri elettori, in particolare verso i giovani, perché secondo me sono proprio i giovani che non sono andati a votare perché non intercettano e non capiscono questa politica, sono distanti probabilmente per cultura e per abitudine. Abbiamo detto mille volte che i nostri ragazzi sono cresciuti in classi multiculturali, multietniche, e non vedono più questa cosa come un problema, come un disagio sociale, culturale, ideologico, però non riescono a trovare una loro collocazione, un qualcosa che li rappresenti, che parli la loro stessa lingua, e magari si sentono distanti da quella che è adesso la situazione di maggioranza. E in questo non intercettare un qualcosa che può essere compatibile con loro, rispetto a tutti gli altri disillusi, le persone che sono stanche, che non hanno quel senso di voglio andare a votare, ecco, diciamo, tutto questo ha creato questo enorme buco elettorale che chiaramente avrebbe potuto sicuramente cambiare la situazione dal punto di vista elettorale, che magari anche in peggio, non è detto necessariamente in meglio. Ecco, un centrosinistra che piuttosto di specchiarsi e guardare, sì, sono centrosinistra, non so tanto di sinistra, perché dobbiamo far contenti quei quattro democristiani che sono rimasti, quel nucleo, diciamo, conservativo, che non si sente da dove sta con la destra, ma che non vuole essere troppo etichettato di sinistra, e invece di creare queste separazioni, questi distacchi, anche pur nelle differenze politiche, abbandonare il senso di identità individuale, che oggi è un punto focale della politica moderna, e ricostruire una cultura progressista, che appunto parli alla gente, che trovi dei canali per parlare alla gente, che usi i social in maniera intelligente, che li usi anche in maniera divertente, tutto sommato, che provi a ritornare nelle scuole, che faccia capire ai ragazzi che la modernità, la multiculturalità e anche la libertà di espressione sessuale e individuale è ovviamente un punto focale della nuova politica, del nuovo modo di fare politica, e avere un senso più collettivista, più unitario rispetto a quelli che sono anche gli interessi globali di tutti quanti, cercando ovviamente appunto di trovare una nuova comunicazione, che è questa la cosa più importante, ed è forse il limite più grande di questa generazione politica, che ha completamente abbandonato quella capacità, ecco, di parlare magari ai ragazzi, di parlare ai giovani, e di ritornare a parlare anche con i propri anziani, con le proprie sezioni di partito, con tutte quelle realtà che una volta facevano il movimento della politica in Italia, insomma, perché comunque è indiscutibile il fatto che penso che non ci sia proprio più un rapporto istituzionale con le sezioni politiche, insomma, e questo è un problema. Ma se la sezione politica in senso più fisico resta quello che è vero pure che invece oggi la sezione politica deve diventare più social, quindi la politica deve parlare con la gente, non deve fare dei comunicati, esternarsi da quello che è ovviamente la situazione per utilizzare dei media in maniera più responsabile, e questo atteggiamento è una recita che capiscono solo quelli che lo fanno, non lo percepiscono le persone che devono ricevere il messaggio. Quindi c'è sempre una speranza, perché abbiamo visto cadute e abbiamo visto rinascimenti in questo paese, e ogni volta abbiamo trovato magari la nostra strada. Ecco, io vorrei che chi sarà il prossimo leader che arriverà, magari il prossimo segretario del PD, guardi alle proprie alleanze con un senso di inclusività piuttosto che un senso di separazione, che aiuti gli alleati a comprendere che va bene il centro-sinistra moderato, ma può andare bene anche alcuni aspetti della sinistra magari più verace, perché ognuno ha comunque un contributo da portare, e che soprattutto se parli alla gente tramite quelli che sono i canali di comunicazione che oggi funzionano di più, anche se ci si espone come ha fatto Salvini faceva le live, si esponeva a essere preso per il culo, ma lui comunque ha creato un contatto con la gente. E anche questa nuova comunicazione può essere anche brillante, può essere anche intelligente, può anche essere ironica. L'importante è che si ridia alla gente quel senso di istituzione, quel senso civico, e soprattutto che si dia un'alternativa a questa situazione politica, perché ora ovviamente la gente non ha saputo cosa votare perché manca veramente un'alternativa politica. Vabbè, questo è Ligabue, Buonanotte all'Italia, che non la conoscevo neanche, l'ho messa semplicemente perché il titolo mi piaceva. E vabbè ragazzi, intanto saluto DJ Joker di Revolve Radio, lo saluto, grazie di essere stato qui con noi, ci ha dato il buongiorno, e poi difende la povera Scozia che è stata, insomma, maltrattata da me, ma d'altronde poi vi racconterò il perché, insomma, ma poi non ha maltratto per me, è come una figlia. Ringrazio anche Francesco che è qui con noi, che ovviamente mi ha messo un grafico dicendo ecco come votano i giovani, e vabbè, poi insomma, bisogna sempre un attimo capire, no, questi risultati da cosa vengono, se sono sondaggi. Ciò non toglie il fatto che comunque il giovane magari vota rispetto a quella che è la situazione attuale, quindi quella che è la fotografia attuale della politica. Se tu dai un messaggio ai giovani, dai un entusiasmo ai giovani, dai una prospettiva ai giovani, e soprattutto se come istituzione ti poni in conversazione con i giovani, sicuramente li troverai molto più recettivi dell'Umarell che sta lì a guardare i cantieri e dice che tanto tutto governo ladro, tutti i zozzoni e via dicendo. Questo penso che sia una cosa abbastanza pacifica da un certo punto di vista, e mi auguro insomma che ci sia questo cambio di tendenza, ci sia la tendenza a comprendere che inevitabilmente il mondo è cambiato, che inevitabilmente la comunicazione nel mondo è cambiata, ed è un qualcosa di cui prendere atto, e non fare come fece il giornalismo nei primi anni 10 del 2000, quindi nel 2010, 11, 12, quando andavamo noi al Festival del Giornalismo, dove il giornalismo guardava il blog con disprezzo invece di comprendere che non era tanto chi utilizzava il mezzo, ma era il mezzo che invece di essere denigrato avrebbe dovuto essere cavalcato. E quando il giornalismo in generale diciamo, l'informazione ha iniziato a cavalcare determinati mezzi, l'ha fatto tardi e male, chiaramente, quindi contribuendo, diciamo, alla diffidenza informativa che ne deriva, insomma, non c'è un punto di vista. Quindi ecco, mi auguro, insomma, che ci sia questa nuova visione rispetto alla politica, questa nuova visione verso una forma di comunicazione, e riuscire ad aiutare gli italiani a comprendere che le difficoltà, quindi quella percezione di povertà e di egoismo che oggi comunque cavalchiamo col fatto che via i negri, via tutti, perché gli italiani e gli italiani, è comunque in una buona percentuale diciamo un discorso di prospettiva rispetto a persone che probabilmente hanno delle serie difficoltà dal punto di vista socio-economico, ma dall'altra parte c'è anche fortemente insinuata sensazione nell'era capitalistica del fatto di dover consumare, quando si ha la percezione che non si può, non si arriva a quel livello di consumo, allora praticamente c'è qualcosa che non va, è colpa degli altri. Io faccio sempre riferimento al fatto che quando Apple, ma come Apple, come tante altre società, producono ogni anno uno strumento che è parzialmente identico a quello nuovo, ma con alcune modifiche, e ogni volta te lo vendono a quel tipo di prezzo, quel tipo di situazione, è chiaro che a un certo punto c'è qualcosa che crea un'ansia nelle persone, perché le persone stesse hanno quell'aspettativa di voler comprare, di voler acquisire qualche cosa. Quindi se da una parte c'è una povertà seria, c'è una difficoltà seria, dall'altra invece c'è qualcuno che vuole mostrarsi in un modo in cui non è, e entrambe le due formule in qualche maniera creano una percezione, che è la percezione del fatto che non ci arriviamo, che abbiamo delle difficoltà, e che questa difficoltà è sicuramente colpa degli altri, perché invece di guardare a noi stessi guardiamo magari agli altri. E finisce che un paese così inclusivo, ricettivo e tanto attento alle esigenze degli immigrati, anche politici, e comunque delle persone che vengono dalla guerra, dalle situazioni di difficoltà, diventa ovviamente un ostacolo, una difficoltà, perché praticamente per colpa loro noi non riusciamo ad ottenere determinate situazioni, quando in realtà dovremmo comprendere che tutto è potenzialmente una risorsa e tutto può essere ovviamente incluso all'interno della nostra vita. Detto questo, io oggi finisco un po' prima, perché come sapete, insomma, devo imparare ad organizzarmi, anche se so che ce la faccio, insomma, con i tempi per quanto riguarda la palestra. Però devo essere onesto, non ho preparato una vera puntata, proprio perché diciamo, magari ci si aspettava che io esprimessi delle considerazioni rispetto a questo. Ho cercato di farlo per quello che mi è venuto in mente, perché deve avere proprie considerazioni, in realtà non ce le ho. Sono un po' non attufato, diciamo un po' asettico rispetto a questa situazione. Potrebbe essere uno shock, no, in realtà non è uno shock, è proprio anche da parte mia un profondo distacco rispetto a quella che è la situazione politica e il contesto politico, anche perché oggettivamente non c'è niente che possa riconoscere il mio modo di pensare o che si avvicini a un certo modo di essere o di fare cultura politica. E questo non perché io vedo alcuni modelli del passato come l'unica soluzione, anzi, ma proprio perché secondo me in questo momento non c'è una soluzione che mi assomigli, che mi ricordi qualcosa di mio. Detto questo, ragazzi, io penso che ci siamo e ci vediamo alla prossima puntata, che è sempre martedì prossimo alle ore 7, sicuramente una puntata più strutturata, sicuramente una puntata con degli argomenti, e sicuramente una puntata dove troverò delle cose da dire, anzi ce le ho già mezze preparate, perché continuerà un po' questo cammino nel mondo dei social, andare a raccontare quelli che sono alcuni aspetti, alcune situazioni e alcuni contesti sociali che ovviamente io sto scoprendo proprio esplorando i social, e cercare di capire dove c'è il bene e dove c'è il male anche in questo, perché veramente ragazzi a volte su certe cose c'è da guardarsi, c'è da mettersi le mani sui capelli. Detto questo, io vi ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato e come sempre buongiorno un cazzo.